Eccoci con Visionare il Cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info sull'home page ci ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito internet alla voce trasmissioni Visionari sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Marcello Faggiani, distributore del film Comunisten al Teatro Palladium a Roma, un evento, una proiezione evento il 20 novembre prossimo, cioè domani venerdì. Marcello, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buonasera a tutti. Allora, parliamo un po' di questa iniziativa, il film, come poi siete arrivati a questa a questo evento proiezione? Beh, innanzitutto l'evento proiezione è all'interno della distribuzione del film, nel senso che Voodoo Passepartout, la cooperativa Voodoo Passepartout, distribuisce film comunisti di Strobe in almeno 15 città italiane, quindi uno sforzo distributivo, non il primo che facciamo, è molto grande, insomma, molto grande come penso si possa immaginare, insomma. Quindi all'interno della distribuzione del film domani ci sarà questo evento al Palladium, insomma, con la proiezione del film di Jean-Marie Straub e Daniele Ulier. Straub, parliamo un attimo della sua poetica, della sua cinematografia e anche di questo film nello specifico. Allora, Straub e Ulier, cito sempre Ulier perché Ulier, la compagna che oggi non c'è più, ha partecipato alla costruzione di questo film, perché in questo film ci sono alcuni frammenti di film passati loro, nei quali c'era appunto come coregista anche Daniele Ulier, la sua compagna. Quindi intanto diciamo che il film è di Daniele Ulier e Jean-Marie Straub. Sì. Noi conosciamo Straub, diciamo, da molti anni, il cinema di Straub da molti anni, perché siamo anche noi, forse in maniera un po' presuntuosa, dei comunisti, nel senso il cinema di Straub costruisce o tenta di farlo un panorama abitabile per il comune, per ciò che oggi definiamo il comune, in senso però di trasformazione radicale dell'esistente. Il cinema secondo noi può far questo, e il cinema di Straub secondo noi fa questo. Sì. E il comunista è proprio un manifesto da questo punto di vista, è il manifesto del cinema comunista. Ecco, raccontiamolo in breve di cosa si parla nel film per chi ci ascolta ed è interessato alla visione. Allora, di cosa si parla? Io direi di cosa si vede, perché innanzitutto è in quanto cinema è immagini in movimento, letteralmente, no? Quindi è la costruzione di immagini attraverso la storia o frammenti di storia di uomini e donne che hanno detto, visto, fatto il comunismo, quindi Franco Fortini, quindi gli operai che escono da una fabbrica del Cairo, quindi Malraux e quindi, insomma, no? E il modo di guardare, di vedere, di proiettare queste immagini non è un modo neutro, non è mai un modo neutro, no? Decidere dove piazzare la telecamera, certo. Ecco. Straub decide di una posizione, per così dire, etica, che è molto vicina, secondo noi, al nostro modo di tentare di trasformare il mondo. Bene. Questo non so se sono stato, sì, però insomma, è questo quello che noi pensiamo del film e del comunismo. Marcello, per chi volesse saperne di più, ci lasci dei riferimenti internet per l'evento, ma anche per la distribuzione più in generale di Comunisten? Certo. Il sito, noi abbiamo un sito che www.voodoo.it è il sito sul quale ci sono tutte le informazioni che si possono prendere, e domani ci saremo tutti noi. Ogni volta che distribuiamo i nostri film, l'anno scorso abbiamo distribuito Anna Arabia di Amos Gitai, ogni volta che noi distribuiamo film accompagniamo con la nostra presenza di tutti i film, noi ci siamo. Bene, i nostri film sono, come così dire, nostri compagni in tutta a tutto tondo, per così dire. Quindi saremo anche lì alla proiezione e incontreremo, tra l'altro ci sarà anche Enrico Ghezzi, ci faremo una chiacchierata con lui. L'orario, Marcello? Ora io 8:30, Cinema Palladium, cioè Teatro Palladio, scusate, a Garbatella. Benissimo. Allora un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie, grazie a voi. Ciao, grazie. Marcello. Arrivederci, ciao. Marcello Faggiani, distributore del film Communisten, domani alle 20:30 al Teatro Palladium qui a Roma. Piero Pala di Complus Events sulla proiezione evento del film Hanno cambiato faccia al Jolly Roger qui a Roma il 22 novembre prossimo, cioè domenica. Piero, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico e salve a tutti e a tutti. Allora, un film che ha qualche anno, però praticamente non ha avuto una visibilità pubblica, se non sbaglio, vero Piero? Sì, diciamo che Hanno cambiato faccia il primo lungometraggio di Corrado Farina e il film, pur vincendo il Pardo d'Oro al Festival di Locarno nel medesimo anno, ha avuto una distribuzione abbastanza travagliata, anche perché se pensiamo che film che avevano, diciamo, come caratteristica principale il fantastico, o nel caso specifico i vampiri, non erano molto diffusi qua in Italia. C'era stato un caso, almeno la trasposizione in chiave moderna, no, del sì, mito dei vampiri, fu solo durante il Maggio francese nel 68 che circolavano principalmente questi film. Sì. Quindi il film di Corrado Farina passò abbastanza presto nel dimenticatorio, visto che i film che anche allora in Italia, se vuoi, con tutta una serie di regie, diciamo così, teoriche, il contenuto era più determinante per la realizzazione e la distribuzione di determinati film. Parlo del contenuto ideologico. Questo film, che ce n'ha, però non seguiva certi standard realistici, diciamo così. Adesso invece abbiamo capito, se pensiamo a Romero, se pensiamo a tanti altri registi, se pensiamo anche all'attualità, no, dello stesso Garrone, che si è cimentato in questo genere. Sì. Anche se però diciamo che il film di Corrado Farina è più su una come posso dire, più su una motivazione legata al mondo anglosassone, quindi non c'è una radice mediterranea, anche se per esempio gli ambienti sono reali e riflettono, no, questa questo utilizzo delle figure mitologiche del cinema, e in questo lavoro Corrado ha voluto, come ti dicevo, adattare, no, e la figura del vampiro è incarnata da un industriale, un imprenditore di cui disponeva di tutto tranne che delle TV e se poteva disporre anche di queste, è facile riconoscere la figura a cui poteva essere abbinato, e questo ha permesso al film, poco tempo fa, 2 mesi, è stato presentato in una cornice molto importante, che è il Barbican di Londra, e è stato inserito all'interno di una manifestazione, di una rassegna che si chiamava The Color of Money, dove c'erano tutta una serie di film che dalla corsa all'oro al disastro finanziario, diciamo, trattavano delle dinamiche, delle distorsioni del capitalismo. Mm-hmm. E quindi da là c'è stata tutta il mondo anglosassone, anche perché se pensiamo, ecco, un altro nome che mi viene in mente, Sam Raimi, che proprio sì, sui la crisi dei subprime fece un film incentrato, no, su questa allegoria fantastica, o preferibilmente e c'è questo neologismo in inglese che è dark fantasy, che poi forse evidenzia meglio, no, gli interessi tra il soprannaturale e la e le società contemporanee. Sì. È un film che ci tenevamo molto a passare, abbiamo iniziato una programmazione da luglio, e principalmente, anzi, sono tutti film del nostro archivio, e quando possiamo, come in questo caso, abbiamo la fortuna anche di avere l'autore. E niente, dell'autore presenteremo in seguito anche il suo secondo film, che adesso non cito, però invito veramente a non mancare a questa proiezione, visto che l'autore è stato anche uno dei più, come potrei dire, dei più attivi, no? Sì. Nella promozione del cinema. Mm. È anche uno scrittore, ha realizzato tutta una serie di gialli intrisi di riferimenti sempre cinematografici, come di un ideale o possibile incontro che lui ha cercato di immaginarsi tra Salgari e Pastrone, e questo in merito al suo suo romanzo giallo antico, e quindi questa è un'occasione anche per confrontarsi con quello che, secondo il sottoscritto, è uno degli autori più singolari e sicuramente più attenti comunque a muoversi nel campo dell'industria cinematografica. Sì. Mantenendo però una decisa autonomia. Bene. Piero, ci lasci tutti i riferimenti, i vostri riferimenti e quelli dell'evento, questa proiezione evento con la partecipazione del regista? Sì, assolutamente. È a pochi passi da voi, dalla radio, che sì. La proiezione si svolge in un pub, Jolly Roger, di cui abbiamo, tra l'altro, ci tengo a far presente, abbiamo fatto costruire uno schermo di 3 metri per 4 proprio per ottimizzare, no, la proiezione. Il pub si chiama Jolly Roger e sta a via degli Anamari 28, ripeto, a San Lorenzo. E un'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire: oltre a Adolfo Celli c'è la meravigliosa Gérardine Huppert, che forse qualcuno si ricorda in Profondo Rosso, così come un altro attore molto importante, Giuliano Disperati. Bene. E niente, quindi domenica 22 alle 18 sul sito della Complus Events potete trovare maggiori riferimenti. E io ti ringrazio. Piero, ci sentiamo alla prossima, allora. Ben volentieri. Ciao, un abbraccio. Anche a te, ciao, ciao. Piero Pala di Complus Events sulla proiezione evento del film Hanno cambiato faccia, domenica 22 novembre. In collegamento con Italo Spinelli, direttore della 16ª edizione di Asiatica Film Mediale, al Maxi qui a Roma dal 20 al 28 novembre. Italo, ben ritrovato. Salve, ciao. Allora, 16ª edizione, partiamo dalle caratteristiche dell'Asiatica Film Mediale. Per chi ci ascolta, quali sono, Italo? Ma dunque, la prima caratteristica del festival, di cui siamo molto molto orgogliosi, è che quest'anno abbiamo avuto da una parte il taglio totale del finanziamento pubblico. Comune, regione e ministero ci hanno tagliato i fondi, tutti. Sì. Quindi il festival quest'anno non sarebbe dovuto accadere. Abbiamo lanciato un appello da una parte, anche informati i nostri spettatori, sostenitori, c'è stato una raccolta, un crowdfunding, e abbiamo raggiunto una cifra minima, però questo festival si realizzerà solo grazie ai propri spettatori. Appartiene agli spettatori che l'hanno sostenuto, da Bernardo Bertolucci a Beatrice Bordon, a tanti che hanno sovvenzionato questa 16ª edizione di Asiatica, e che insomma è così dà conto del valore di questa manifestazione, ecco. Sì. È stata una bella sfida, pensavamo di non farcela, invece ci siamo riusciti. Allora, questo è il primo aspetto che volevo sottolineare, sì, che ci tengo. Poi nello specifico invece dei film, i film vanno diciamo dall'Azerbaigian fino quasi, si spingono al Giappone, e abbiamo film in competizione, documentari in competizione, cortometraggi, non credo ci sia da sottolineare un filo rosso molto al femminile, diciamo sia dal punto di vista della regia, che è stata realizzata da alcune, per esempio, documentariste che hanno raccontato Jesse Park dalla Turchia, a film dalle Filippine con Brillante Mendoza. Il focus è sulla Corea, con film documentari e corti provenienti dalla Corea del Sud. Quante le opere presentate, Italo? 23 opere, okay. 23 film. Un'edizione un pochino ridotta rispetto all'altro anno, ma è talmente miracolosa che riusciamo a farla che certo. Siamo molto, insomma, è un programma comunque pieno, pienissimo, con i suoi ospiti, e con questa scelta sempre di attenzione, diciamo, a registi che in qualche modo nuovi talenti che raccontano i vari paesi dell'Asia e anche del Medio Oriente. Ci sono anche dei corti, tra l'altro premiato a Cannes come miglior cortometraggio dal Libano, appunto dicevo dall'Azerbaigian, sempre l'Iran, che è sempre vicino alla nostra attenzione, al nostro cuore, quindi documentari dall'Iran, dall'India, dalla Cina, dalla Mongolia, quindi un programma ricco. Senti, ci dai tutti i riferimenti internet per la programmazione, Italo? Assolutamente, sì, www.asiaticafilmmediale.it. La manifestazione è al Maxi, come hai detto, dal 20 al 28, quindi domani la grande apertura dalle 7 del pomeriggio, con un concerto di musica tradizionale straordinario dalla Corea, documentari e film d'apertura iraniano, Oblivion Season alle 10, e appunto quello è il sito, e questo è quanto. Bene, allora un abbraccio, Italo, un in bocca al lupo, e a presto. Crepi. A prestissimo, grazie. Ciao. A presto, grazie. Ciao. Italo Spinelli, direttore della 16ª edizione di Asiatica Film Mediale al Maxi qui a Roma dal 20 al 28 novembre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa. Parliamo ora della 33ª edizione del Torino Film Festival dal 20 al 28 novembre. Ne parliamo con Davide Oberto, che è coordinatore della sezione documentaria. Davide, ci sei? Buon pomeriggio, sì, ciao. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora Davide, facciamo intanto una breve panoramica sul festival in generale e su quelle che sono le sue caratteristiche di questa, poi nello specifico, questa 33ª edizione. Il festival ormai diventa vecchio, ma continua a tenere la barra dritta sul cinema giovane, che era stato un po' la sua ragion d'essere di nascita nel 1982, cioè l'attenzione verso registi e registe esordienti, sperimentatrici, capaci di cercare, di provare, di osare linguaggi nuovi, insomma. E in effetti i concorsi di Torino, a cominciare dal concorso principale Torino 33, che di opere prime e seconde eccezionalmente terze, e anche i concorsi dei documentari sono abbastanza il segno di questa attenzione a un cinema di ricerca formale. Senti, questa 33esima edizione si è caratterizzata in qualche punto preciso? Ce ne sono tanti di a partire dal manifesto, dal poster del festival, dall'immagine che è dedicato a Orson Welles, quindi il festival quest'anno è dedicato a Welles, mostrerà tre film che sono Citizen Kane, Mr. Arkadin e Touch of Evil, ed è una dedica verso un nome tutelare che anche lui iniziò molto precoce a travolgere il cinema dell'epoca. Insomma, c'è una retrospettiva sul cinema di fantascienza, ma è diminutivo chiamarlo così, sul cinema che racconta un mondo distopico, per cui il cinema del futuro che racconta la distopia e non l'utopia. La retrospettiva si chiama Cose che verranno, è suddivisa su due anni. Quest'anno ci sono una trentina di film, il prossimo anno ce ne sono altri 30. Mm-hmm. E il direttore ospite di quest'anno è Julian Temple, che ha curato una sezione che si chiama Questioni di vita e di morte, a partire dal suo film nuovo che il festival mostra in anteprima internazionale, che si chiama The Ecstasy of Wilco Johnson, che racconta appunto la storia di Wilco Johnson, che annunciò un paio d'anni fa di avere un tumore, di essere in fase terminale, e cominciò a girare il mondo per dare concerti di addio folli e poi guarì e quindi è ancora con noi a suonare. E Questioni di vita e di morte sono altri cinque film che raccontano appunto il rapporto con la morte nel cinema. Mm-hmm. Arriviamo allo specifico documentario. Sì, io curo TFF Doc, che è un po' lo spazio che il festival da qualche anno dedica al documentario, benché poi il documentario sia sparso in tutte quante le sezioni. Sì. e dimostra una vitalità estrema, forse se vogliamo parlare di generi è il genere più vivace, più indefinibile nel panorama cinematografico contemporaneo, e anche quello produttivamente più intrigante, perché usando meno soldi si ingegna di più e forse mantiene più libertà di altri tipi di cinema. Mm-hmm. Ci sono due concorsi, un concorso internazionale con 11 titoli, un concorso italiano con 9 titoli, che ormai è al 15° anno di età e che credo abbia contribuito molto a cambiare un certo cinema in Italia. Mm-hmm. C'è un focus che quest'anno è dedicato al Mediterraneo, l'anno scorso era la democrazia, la parola d'ordine. Sono 6 programmi, uno che è una sorta di prologo, di dichiarazione di intenti teorica nostra, mia, del mio gruppo di lavoro, che è formato da Paola Cassano, da Mazzino Montinaro e da Severin Petit, ed è una proiezione molto cinefila, molto molto è un piacere per gli occhi e per lo spirito. Faremo rivedere Méditerranée di Jean-Daniel Pollet in 35 mm, due corti bellissimi in 16, A Distant Episode, che è l'ultimo film di Ben Rivers, e Eclipse of Useless Light di Theo Deliyannis, che è un giovane regista greco che ha girato in 16 e ha sviluppato amatorialmente la sua pellicola, e una piccola chicca che è un intervento di Jean-Luc Godard su Méditerranée, in cui racconta come film socialismo si sia ispirato e abbia attraversato il viaggio di Pollet. Tutto ciò per dire che per noi Mediterraneo non è solo attualità, ma è anche produzione di immaginario, e volevamo anche un po' ricostruire una mappa del Mediterraneo che non fosse solo urgenza. Mm-hmm. I film sono 5, sono Flotte d'Europa di Vladimir Tomic, L'Accademia delle Muse di José Luis Guérin, Blasinima di Namin Marco Giacca, un giovane e regista algerino che amiamo molto, Je suis le peuple di Anna Roussillon, regista libanese, film girato in Egitto, e il regista L'Enfant du Pays, che è Andrea De Aglio, di cui mostriamo Shoulders to the World, che è un film girato quest'estate a Ventimiglia, al confine tra Francia e Italia, tra i migranti che hanno rimbalzati tra i due paesi, infatti. Mm-hmm. Bene, Davide, io ti ringrazio. Ci lasci tutti i riferimenti internet per la programmazione? Sì, www.torinofilmfest.org, trovate il programma online, la possibilità di comprare i biglietti, tutte le informazioni del caso. Un abbraccio e a presto. A presto, grazie. Ciao. Ciao. Davide Oberto, coordinatore della sezione documentaria del 33esimo Torino Film Festival dal 20 al 28 novembre, scusate. Ritroviamo con piacere Costanza Quatriglio, regista del documentario 87 ore, in uscita in sala il prossimo 23 novembre. Costanza, ben ritrovata. Grazie, ben trovati. Allora, un film, un documentario importante, raccontaci un po' la storia che ti ha portato ad avvicinarti a questa vicenda. Ma guarda, mi sono avvicinata a questa vicenda come... così, insomma, sentendo, leggendo la storia di Francesco Mastro Giovanni nel libro scritto quattro mani da Luigi Manconi e Valentina Calderone, che avevano raccolto delle storie sostanzialmente di morti di Stato, mettiamole così, diciamo. E poi sempre loro mi hanno indicato le immagini della videocamera di sorveglianza che erano state rese pubbliche, due o tre anni dopo la morte di Mastro Giovanni, erano state rese pubbliche queste immagini che mostravano potenzialmente cosa accadeva dentro quel reparto in quei quattro giorni, cosa è accaduto in quel reparto in questi quattro giorni, e mi è stato mostrato queste immagini da Venezia e mi hanno chiesto appunto se non fosse il caso di ragionare a una narrazione, a un film. E lì io poi sono detta che era il caso, e quindi ho cominciato a pensare come fare, come realizzare un film che potesse raccontare queste storie. Senti, intanto complimenti, perché è un film, è un documentario, una storia molto dura, e tu hai saputo renderla con molta efficacia per quanto mi riguarda. Non è la prima volta, è un caso abbastanza emblematico di tutti quei degli abusi che si sono succeduti negli anni e sono sempre più ricorrenti. In questo caso si è trattato di un trattamento sanitario obbligato, quattro giorni in un letto di contenzione, e cittadini che sotto la tutela dello Stato arrivano sani ed escono morti. Non è il primo caso, casi molto diversi e molto anche lontani geograficamente. Assolutamente sì, poi la questione del trattamento sanitario obbligatorio avrebbe bisogno di di un film a parte, perché come sta succedendo sempre più spesso, diceva anche Luigi Manconi, il trattamento sanitario obbligatorio molto spesso diventa quasi un mandato di cattura, nel senso che viene realizzato a volte con dispiegamento di forze dell'ordine anche molto pesante. Nel caso di Francesco Mastro Giovanni così è stato: lui la sera prima del 31 luglio, quindi la sera del 30 luglio, andava, dicono, ad alta velocità nella zona pedonale di Aceroli, cosa che era comunque, non è stata, insomma, era un posto pieno di bancarelle, di persone eccetera eccetera, comunque non viene multato quella sera. La mattina viene trovata la macchina, lo inseguono e di fatto lo circondano con una caccia all'uomo mentre si fa il bagno a mare, e quindi poi viene prelevato così. Il film invece racconta un'altra cosa, racconta come è stato trattato, quindi racconta la contenzione meccanica, che è una pratica poco disciplinata, anzi diciamo quasi pochissimo disciplinata, perché non è stata abolita dalla legge Basaglia, e quindi il fatto che non fosse esplicitamente menzionato nella legge Basaglia fa sì che alla fine ci siano delle opinioni discordanti, ecco, in dottrina medica eccetera, ma non vi ho imparato facendo questo film che non bisogna confondere il trattamento sanitario obbligatorio con la contenzione, cosa che spesso accade, perché per esempio in questo ospedale è venuto fuori che tutte le persone che entravano in trattamento sanitario obbligatorio, non dico tutte, però insomma era probabile che venissero legate. Così io ricordo a tutti che il film racconta che Francesco Mastro Giovanni è stato legato mentre dormiva sedato, stava dormendo. Ed è morto soffocato poi praticamente questo? È morto sostanzialmente dopo 4 giorni, cioè appunto questa famosa 87 ore di contenzione interrotta. Il medico legale che è stato chiamato per prassi per accertare le cause della morte naturale, appena ha guardato, non con le videocamere di sorveglianza, ma ha guardato, diciamo, con gli occhi suoi da essere umano quel corpo, ha visto che c'erano delle lesioni, ha fermato tutto, ha capito che la morte non poteva che essere una morte non naturale, e da quel momento sono arrivate le indagini e lì si è scoperto che lui è morto per annegamento interno, cioè di fatto la posizione del corpo ha fatto sì che i polmoni si riempissero d'acqua. Sì. E questa cosa il film la racconta in modo preciso, perché l'elemento del mare e dell'acqua è un elemento fondante, diciamo, ricorrente. Allora, in un periodo in cui c'è stata la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, questa vicenda è tuttora in corso, perché è in corso il processo che ha stabilito che non c'è solo la responsabilità dei medici, ma anche quella degli infermieri, perché all'inizio sostenevano che fossero dei semplici esecutori di ordini medici, ma in realtà la responsabilità è anche loro. Si sta chiarendo questo in secondo grado, perché il primo grado ha stabilito che i medici sono colpevoli di sequestro di persona, quindi la contenzione ininterrotta è stata considerata un sequestro di persona, di morte per conseguenza di questo sequestro di persona e di falso in atto pubblico, perché loro non hanno, nessun medico ha notato in cartella clinica il fatto che l'uomo fosse contenuto, il fatto che Massimo Giovanni fosse legato, e questa mancata annotazione è diventata, diciamo, per il giudice di primo grado la prima, il primo, come dire, indizio di dolo, non di colpa, diciamo, no? Nel volerlo legare. E proprio questa famosa mancata annotazione è il motivo per cui il giudice dice che gli infermieri non potevano sapere che questo ordine fosse un ordine illegittimo e quindi loro seguivano un ordine. E poi invece in appello il procuratore dice: ma loro non possono essere considerati solo dei meri esecutori senza, come dire, un'autonomia di giudizio, loro hanno, c'è un codice deontologico, c'è una figura professionale eccetera, quindi anche loro sono responsabili. Sì. vedremo cosa dirà l'appello sostanzialmente. Un caso che ha avuto Costanza una certa eco dalle pagine scritte, ma anche una canzone che compare anche nel tuo documentario. Questa vicenda, insomma, ha avuto se non altro il vantaggio di far parlare di un problema. Beh sì, diciamo, la canzone scritta dai 99 post per il film, per i titoli del film, una canzone che sarà inserita nell'album che uscirà l'anno prossimo. Le musiche del film le firmano Marco Messina e Sascha Ricci, che sono diciamo fanno parte dei 99 post, però con il loro progetto elettronico, quindi insomma è un progetto autonomo dal punto di vista musicale. Sicuramente il fatto che ci fosse anche l'interesse immediato di Rai 3, io ricordo che Vianello, che è il direttore di Rai 3, ha partecipato alla nostra conferenza stampa, lui è stato uno dei primi, forse addirittura il primo, a mandare in onda all'epoca di non andare a creare qualche immagine, quindi ci teneva molto a fare il film. Il film è stato, come dire, amato immediatamente da Anna Maria Tricalà e Fabio Rancini di Rai 3, che insomma è nato bene, ed è paradossale questa cosa, perché devo dire che dico paradossale perché è un film difficile, duro, con un linguaggio radicalissimo, e invece per fortuna è stato molto voluto non solo da me e da Luigi Manconi e Valentina Caldrone, ma è proprio stato voluto da tanti, è stato protesto dalla Doc Club, cioè dalle persone che hanno lavorato a questo film, quindi sì, io posso dire che questo film fa parlare della contenzione, pone, come dire, un'ipoteca gigantesca sulla fiducia che noi tutti i cittadini riponiamo in chi ci, come dire, deve sorvegliare, direi, un gioco di parole terribile, perché sì, l'osservazione medica in questo caso diventa un atto di una sorveglianza più pura, no? più becera, se vogliamo, cioè sì, la sorveglianza del potere e del potere disciplinare dello Stato sostanzialmente. Costanza, anche una sinergia importante con Amnesty International, volevo sapere poi le modalità di distribuzione del documentario. Allora, le modalità di distribuzione in film esce in sala, appunto abbiamo avuto quest'anteprima prima a Roma il 6 a, novembre, esce in sala lunedì 23 a Roma, Cinema Madison, a Milano Cinema Bistrade, e poi uscirà a Padova, a Bergamo, a Vicenza, si sta parlando di Bologna, la Cineteca, a Napoli, insomma in molte, Perugia, insomma comunque avrà una distribuzione, penso, perché viene richiesto, questa è una cosa che mi riempie di gioia, nonostante, diciamo, all'inizio non ci credessi sinceramente, ero io la prima a dire ma secondo me chissà, ma la cosa più importante di tutte è che queste uscite in sala poi saranno seguite da una messa in onda su Rai 3 il 28 dicembre, cioè come regalo di Natale sostanzialmente si potrà partecipare, se vogliamo così, a costruire un'esperienza collettiva che è la passione di Francesco Mastro Giovanni lì dentro, cioè la sua, il suo sacrificio, come dicono i familiari. Costanza, io ti ringrazio, è stato come ogni volta un piacere, ci sentiamo spero presto. A presto allora, grazie, grazie davvero Federico. Ciao, ciao, un abbraccio, presto, ciao. A presto, sì. Costanza Quatriglio, regista del documentario 87 ore, in uscita in sala a Roma e Milano il prossimo 23 novembre. Il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15, le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e sulla pagina Facebook di Visionari. Eccoci con Sergio Ponzio del Cineclub The Tour sulla terza edizione del The Tour on the Road Film Festival da ieri 18 novembre fino al 6 dicembre. Sergio, ben ritrovato. Grazie Federico, grazie. Allora, terza edizione on the Road Film Festival, cos'è questa invenzione Sergio? Come dici giustamente, siamo arrivati alla terza edizione, quindi è un'invenzione già collaudata e sempre in via di ridefinizione, insomma, come piace a noi al The Tour, non ci accontentiamo mai di una formula consolidata. E è un festival cinema indipendente dedicato al viaggio, alla strada, alla frontiera, alle barriere visibili e invisibili, al disorientamento più che all'orientamento. Ci interessa del viaggio più che la destinazione, il percorso, la possibilità di fermarsi lungo la strada, deviare, perdersi, eventualmente ritrovarsi, ma non è neanche necessario. E tutto questo percorso di viaggio noi lo articoliamo in sezioni che sono sempre più ricche, ogni anno innestiamo qualcosa di nuovo. Quest'anno abbiamo per la prima volta una sezione competitiva di lungometraggi internazionali e ne sono arrivati quasi 400 da tutto il mondo, quindi anche la selezione è stata dura. E la sezione lungometraggi, accompagnata da altre due sezioni competitive dedicate invece al cortometraggio narrativo e sperimentale. E quindi abbiamo tre giurie, insomma, facciamo le cose in grande qui, abbiamo tre giurie con presidenti di giuria rispettivamente Roberto Silvestri per quanto riguarda i lunghi, poi abbiamo Daniele Cipri, regista noto a tutti per quanto riguarda i corti narrativi, Ida Gerosa che è una delle pioniere, artista della computer art nel nostro paese. Oltre alle sezioni competitive poi ci saranno e ci sono, perché il festival in realtà è cominciato ieri, sì, con il primo appuntamento di un focus dedicato all'Algeria, si chiama Tour de Tour, questo focus curato da Odd Forel. Ieri abbiamo presentato Rivoluzione Zangi, un bellissimo film di Teguia presentato in sala da Donatello Fumarola. E poi il ciclo dedicato all'Algeria proseguirà anche nel corso, diciamo, della programmazione del festival. Abbiamo un omaggio a Claudio Caligari, scomparso quest'anno. Lui è scomparso quest'anno, Pasolini è morto, l'anniversario, diciamo, della morte è di pochi giorni fa, e questi due eventi in qualche modo li abbiamo legati, perché Caligari e Pasolini hanno trattato il tema delle periferie del mondo suburbano e del relitto, diciamo, della nostra città in una maniera speciale. E dedichiamo questo omaggio a Caligari questo sabato ci saranno in proiezione i suoi due primi film, Amore Tossico e Odore della Notte, che sono poi due film che sono diventati altrettanti cult, e ci sarà modo di parlare del suo cinema assieme ad alcuni protagonisti, alcuni compagni di strada del suo cinema. Avremo Roberta Mattei e Silvia D'Amico, che sono protagoniste di Non essere cattivo, quindi dell'ultimo film di Caligari, rimasto incompiuto, il suo testamento cinematografico, che poi è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero. Però non proietteremo Non essere cattivo, ma avremo modo di parlare del cinema di Caligari con le due attrici e insieme a Giordano Meacci, che è sceneggiatore anche lui dell'ultimo film di Caligari. Questo è un po' il panorama. Poi abbiamo molte tematiche che si intrecciano, coincidenze oltre a questa, sì, degli anniversari luttuosi di Caligari e Pasolini. Abbiamo la concomitanza con COP21, con la conferenza sui cambiamenti climatici di Parigi, e qui questo filo conduttore ci porta a individuare un percorso che attraversa le diverse sezioni. Evidenzierei un film fuori concorso che presentiamo la penultima sera, quindi il 5 dicembre, si chiama Bikes vs Cars. È un film che ha vinto di recente il Cinema Ambiente, il Festival a Torino, ed è presenta, diciamo, la possibilità di un mondo senza automobili, dove la bicicletta potrebbe risolvere non dico tutti, ma insomma gran parte dei problemi legati al clima e alla mobilità, diciamo, urbana, insomma. Sì, e quindi ci saranno presentati casi diversissimi in giro per il mondo, quindi un viaggio nel tentativo di individuare vari modi di interpretare la mobilità urbana, quindi da quelli più avanzati tipo Copenaghen, dove quasi il 50% del traffico ormai avviene su bicicletta, e oppure invece in tutt'altra direzione, San Paolo del Brasile, dove i movimenti lottano ancora per avere piste ciclabili, per venire riconosciuta, diciamo, la loro incolumità. E la nostra situazione in Italia non è poi alla fine molto, molto diversa purtroppo da questa. L'ultima sera del festival ci sarà questo evento conclusivo straordinario, secondo me, questo grande film surrealista brasiliano, forse il più grande film del cinema muto brasiliano, Il Limite, un film anche poco conosciuto da noi. Sarà sonorizzato dal vivo dal nostro Mike Cooper, amico del festival, amico del The Tour da anni, e un polistrumentista, un grande bluesman, uno dei più grandi bluesman viventi, che farà questo lavoro di sonorizzazione insieme ad Alipio Carvalho Nieto, che è uno tra i massimi esponenti dell'avanguardia musicale brasiliana in questo momento. Lui è un sassofonista, quindi ci sarà questa sonorizzazione di due ore intense di questo film bellissimo, e a seguire poi la cerimonia di premiazione del nostro festival. Per tutte le altre informazioni poi invito a seguirci su sicuramente sul nostro sito, dove troverete poi il programma dettagliato, e sui vari social chiaramente avrete anche modo di avere delle informazioni aggiornate costantemente. Bene, Sergio, sei stato piuttosto esaustivo, io ti ringrazio. Allora, grazie. Ricordiamo, terza edizione del The Tour on the Road Film Festival, da ieri 18 novembre fino al 6 dicembre. Grazie, dicembre. Un abbraccio e alla prossima. Un abbraccio anche a te, grazie. Ciao, grazie, Sergio. A tutti voi. Ciao. Sergio Ponzio del Cineclub The Tour. In linea c'è Valerio Carocci per parlarci di Schermi Pirata, il cui prossimo appuntamento prevede la proiezione della Felicità è un sistema complesso al Liceo Croce qui a Roma il 25 novembre, che è mercoledì. Valerio, ci sei? Sì, eccomi. Buongiorno. Oh, ben ritrovato. Come stai? Bene, bene, voi tutto a posto? Tutto a posto. Allora, per cominciare, l'iniziativa Schermi Pirata, dove nasce, Valerio, e di cosa si tratta? Dopo lo sgombero del Cinema America e chiuso il piccolo forno, abbiamo pensato di continuare la nostra rivendicazione di riutilizzo e rigenerazione degli spazi culturali della città, anche fondamentalmente senza occuparli in maniera permanente, ma facendo degli spot nella città. Quindi abbiamo invaso il Giardino degli Aranci, San Pietro in Vincoli, la Scalinata del Lungotevere, Castel Sant'Angelo. Abbiamo tentato di dare a queste cartoline romane una forma e una funzione in termini culturali. Senti, io ricordo l'evento del Rocky Horror Picture Show sulla una delle pareti di Castel Sant'Angelo, un'iniziativa partecipatissima. C'era stato anche The Wall sul Lungotevere. Adesso come sta proseguendo la vostra attività, Valerio? Il cinema è sgomberato, però c'è stata una grande vittoria al TAR in difesa dei vincoli apposti dal MIBACT da parte del nostro studio legale, e quindi abbiamo difeso ancora una volta la speculazione, il cinema, e con lui anche le altre 42 sale, perché con questa vittoria si è creato un precedente giuridico sul riconoscimento del valore antropologico di questi edifici, che va al di là del riconoscimento culturale architettonico, ma rappresentano appunto un punto di incontro, di ritrovo e di appartenenza e identificazione per i territori. Senti, per questo prossimo appuntamento, il film esce nelle sale il giorno dopo, avete fatto questa proiezione anticipata con anche il cast artistico del film, giusto? Sì, ci staranno Valerio Massandrea, Zanati, e lo dico qui in anteprima, che Battiston, che ci ha appena confermato di poter venire all'iniziativa. È un'anteprima speciale che con la BIM abbiamo deciso di organizzare in uno dei licei, nel quale solitamente, al di là della formazione del percorso scolastico standard, diciamo, non succede nulla, come non succede nulla in tutti questi quartieri anche bene della periferia romana, ma che sono diventati di fatto dei semplici dormitori per i cittadini, lasciando poi spazio a quelli che sono tutti i problemi di sicurezza che abbiamo e che poi la destra risolve con il controllo delle forze dell'ordine, ma che secondo me si possono prevenire e curare semplicemente facendo vivere le scuole, le piazze, i parchi, appunto con iniziative sociali e culturali. Senti, per questa iniziativa, ma anche per le future attività, ci sono dei riferimenti internet a cui dove sì, poter tutte vedere? Le informazioni passano sulla pagina Facebook del Cinema America Occupato. Su Twitter il sito non è ancora aggiornato, ma è americaoccupato.org. Valerio, un abbraccio, ci sentiamo per le prossime iniziative. Ciao, ciao Federico, ciao. Buon lavoro. Ciao, ciao. Valerio Carocci per parlarci di Schermi Pirata, con la proiezione del film La Felicità è un sistema complesso al Liceo Croce qui a Roma il prossimo mercoledì 29 novembre. In collegamento con Eddie Bertozzi di Officine Ubu sulla distribuzione del film A Testa Alta, in uscita in sala oggi giovedì 19 novembre. Eddie, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Allora, un film molto interessante sul rapporto tra giustizia e minori, giusto? Esatto, è la storia di un ragazzino che seguiamo da quando è proprio un bambino fino alla primissima età adulta, un ragazzino problematico che viene da una famiglia disagiata, che entra e esce dai tribunali minorili, strutture correttive di vario tipo, e di come questo ragazzo, grazie alla perseveranza di una struttura sociale che si raccoglie attorno a lui, un giudice minorile interpretato da Catherine Deneuve e un assistente sociale che si affeziona particolarmente a questo ragazzo interpretato da Benoît Magimel, riusciranno a portarlo sulla buona strada. Tutto questo con la forza della struttura sociale diciamo, dello Stato, ma anche e soprattutto grazie alla perseveranza e alla forza dell'amore. Oh, ecco, il vero cambiamento c'è quando diventa padre, giovane padre, e quindi con la responsabilità di avere un'altra vita da curare, di una persona di cui prendersi cura. Però nel film si dimostra come, quando vengono offerte delle possibilità di uscire dal proprio ghetto, spesso della propria condizione familiare e sociale, le persone dimostrano il meglio di loro. Certo, tutto quello che serve al protagonista è un'opportunità che gli venga offerta, è un'opportunità che lui possa accettare. Non è automatico che un ragazzino in quelle determinate condizioni la sappia e la voglia accettare immediatamente, perché non è... quando cresci con una madre completamente sbandata, un padre assente, dove i piccoli furti sono la cosa che ti mandano avanti, andare sulla giusta via può essere difficile, può essere un percorso molto più difficile rispetto a continuare sulla, diciamo, cattiva strada. Però è importante che ci sia qualcuno che creda nella possibilità di redimere queste persone, di metterle sulla giusta via, di proporre loro un'opportunità e spiegare loro, educare loro rispetto al fatto che c'è un'opportunità migliore, c'è un modo diverso di poter essere e di poter contribuire, quindi anche agli altri, alla società che ti sta attorno. Oh, sicuramente una buona sceneggiatura, Eddie, ma anche la scelta di grandi interpreti, a partire dal protagonista. Sì, il protagonista è straordinario, è un giovanissimo attore non protagonista, si chiama Rod Parado, un ragazzo che la regista ha letteralmente trovato per strada, e la regista ci ha raccontato quanto anche è stato difficile convincerlo a recitare, a mettersi davanti alla telecamera. E questo ragazzo è straordinario, nel senso che mette sullo schermo, nel suo personaggio, tutta la forza, tutta l'irruenza che il personaggio richiede, e lo fa con quella naturalezza, quella spontaneità che solo i non professionisti, i non attori possono metterci. Senti, Eddie, sulla regista invece cosa ci dici rispetto, ecco, alla sua visibilità in Italia? E allora, Emmanuel Bercot è probabilmente uno dei personaggi cinematografici dell'anno. Lei ha già diretto, lei è sia regista che attrice, piuttosto nota in Francia, ancora sconosciuta in Italia, relativamente sconosciuta in Italia, ma questo è l'anno in cui tutti si accorgeranno di lei. Con questo film A testa alta, di cui è la regista, ha aperto il Festival di Cannes, quindi un grandissimo onore. Ma sempre al Festival di Cannes, per un altro film che sarà in uscita sugli schermi italiani a partire da inizio dicembre, se non sbaglio, si chiama Monroy, di cui è protagonista come attrice, lei ha vinto il premio come miglior attrice, quindi è assolutamente il suo anno. È una regista che si inserisce, diciamo, all'interno di quel solco, chiamiamolo realismo sociale, di un cinema, chiamiamola la Dardenne, però con quella sensibilità, con quel tocco femminile che ce lo fanno amare senza riserve. Quindi è sicuramente un nome da tenere d'occhio, e siamo curiosi anche di vedere cosa farà in futuro. Eddie, da oggi nelle sale quante copie? Sono circa 35 copie, quindi un'uscita misurata, tipica, insomma, dei prodotti di qualità che devono essere cullati, protetti, e bisogna scegliere le sale giuste, quelle che possono valorizzare il prodotto, con la speranza che la tenitura possa essere lunga e possa anche allargarsi. Io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille a voi. Ciao Eddie. Ciao. Eddie Bertozzi di Officine Ubu sulla distribuzione del film A testa alta, in uscita in sala oggi giovedì 19 novembre. Alessandro Rossetti dell'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, per parlare di percorsi di cinema alla Casa del Cinema qui a Roma. Ultimi due appuntamenti, era una rassegna di quattro date, e i prossimi appuntamenti sono il 25 novembre e il 2 dicembre. Giusto Alessandro, intanto benvenuto. Giusto, grazie. Allora, tanto parliamo di percorsi di cinema, di questa iniziativa che va avanti già da diversi anni. Sì, è un'iniziativa che è arrivata alla 12ª edizione, abbiamo iniziato nel 2004 inaugurando la Casa del Cinema di Roma, che proprio in quei giorni faceva le prime attività e ha ospitato un evento in cui proiettavamo un film di Monicelli e avevamo appunto Monicelli ospite e il nostro presidente di allora Ugo Gregoretti che faceva da conduttore. Mm-hmm. E nel corso di questi 12 anni il percorso di cinema ha realizzato più di 70 eventi. Ogni evento consiste in questo: la proiezione di un film, è un evento monografico, un film di un autore, di un grande autore o di un giovane promettente, un giovane esordiente, a seguito della proiezione c'è l'incontro dell'autore con il pubblico e l'incontro viene condotto da un altro autore. Abbiamo preferito questa formula proprio per evidenziare il lavoro tecnico, dalla scrittura a tutto il lavoro esecutivo del film fino alla distribuzione, per poter entrare nei meccanismi più reconditi della creazione di un film, di un'opera. Tra l'altro tutto viene poi caricato in rete, a disposizione l'evento viene filmato, si ricava da questo un film di montaggio dell'evento e poi viene messo in rete sul sito dell'ANAC e così è a disposizione del pubblico per analizzare meglio appunto il processo creativo di un'opera. Stavo notando che dei 4 titoli di questa rassegna ho avuto ospiti tutti gli autori, però ricordiamo i prossimi appuntamenti che sono, ricordiamolo ancora una volta, il 25 novembre e il 2 dicembre, Alessandro. Sì, abbiamo il prossimo evento, è un film di Piero Cannizzaro, Ossigeno, è un film molto interessante, un film documentario molto interessante sulla storia vera di un personaggio che è entrato in carcere per una questione di furti. Lì dentro ha abbracciato l'ideologia delle Brigate Rosse, però senza commettere alcun reato, praticamente è stato poi condannato per tutte le vicissitudini di quegli anni in cui si erano inasprite moltissimo le pene per questi tipi di reati. Mm-hmm. E l'ultimo appuntamento è il 2 dicembre. Il 2 dicembre abbiamo Beppe Gaudino, il suo ultimo film, che ci permette appunto di che tra l'altro è un film che ha ottenuto dei grandi riconoscimenti a Venezia. La protagonista è Valeria Golino, ha vinto il premio Volpi, la Coppa Volpi, per la migliore interpretazione. Per Amor Vostro, insomma, è un film a cui noi teniamo moltissimo. Abbiamo mandato come ANAC al nostro socio Beppe Gaudino i nostri più sentiti ringraziamenti per il film che ha fatto e i complimenti per il successo che ha ottenuto. Senti, allora a questo punto diamo come riferimento il vostro sito internet per la programmazione, Alessandro. Sì, senz'altro. Il sito www.anac-anacautori.it, no, quella è la mail, scusate, il sito basta che cade ANAC, e non sbagliare, sì. però non vi dovete sbagliare col sito anticorruzione. Sì, ok. Autori cinematografici. Allora Alessandro, ci sentiamo presto, un abbraccio. Un abbraccio a voi e grazie dell'ospitalità. Ciao, alla prossima. Alla prossima. Alessandro Rossetti dell'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, su percorsi di cinema, i prossimi 2 appuntamenti, 25 novembre e 2 dicembre. Un bel appuntamento ora con Pietro Marcello, regista del film Bella e Perduta, in uscita in sala oggi giovedì 19 novembre, film al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena. Pietro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, raccontiamo brevemente questa avventura, questa nuova avventura cinematografica, Pietro, di cui ti faccio i complimenti. Grazie. Per chi ci ascolta, insomma, raccontala per sommi capi. Vabbè, è stata un'esperienza che è durata 2 anni e che il film è nato, che doveva essere un'inchiesta, un viaggio in Italia, poi attraverso degli imprevisti anche tragici, per esempio la morte di Tommaso Cestrone, conosciuto come l'angelo di Carditello, insieme a Maurizio Braucci abbiamo pensato alla fiaba, di realizzare una fiaba contemporanea, che in un certo senso è stato anche un qualcosa di azzardato, ma ce lo siamo potuti permettere perché siamo indipendenti, il film è prodotto da noi e abbiamo avuto tutte le libertà del mondo di azzardare e di rischiare. È così che abbiamo sviluppato un film attraverso la figura, anche di una figura come quella di Pulcinella, non un Pulcinella alla commedia dell'arte, bensì un Pulcinella che diventa, diciamo, una sorta di Mercurio, no? Che si trova tra i vivi e i morti. Lui, il nostro Pulcinella, era colui che esaudiva il desiderio del morto, e anche del nostro Bufalo, ovvero Stagione, e diciamo il protagonista del film. Tra l'altro un bufalo maschio che non dà latte, quindi non viene considerato molto tra gli allevatori. Sì, perché nella filiera produttiva è completamente inutile, e poi con l'inseminazione artificiale non è neanche più utile per l'accoppiamento. Diciamo, a differenza di un vitello, un bufalo cresce lentamente. Per prendere massa ci vogliono 3 anni, invece un vitello dopo 7 mesi è morto. E così. Tommaso Cestrone, che era il pastore che si prendeva cura della regia di Carditello, amava anche tanto gli animali e spesso salvava questi piccoli bufali che venivano abbandonati nei fossi e venivano portati all'interno della regia di Carditello. E in un certo senso il nostro bufalo Sarchiapone resta orfano 3 volte, la prima volta perché viene allontanato dalla madre, la seconda volta perché viene buttato nel fosso dall'allevatore e la terza volta con la morte di Tommaso. Un eterno orfano. Senti Pietro, vengono toccati anche temi importanti, ad esempio l'abbandono e il disuso di un patrimonio importante della storia di questo paese, ma anche la terra dei fuochi, per cui i problemi legati all'ecologia e alla salute pubblica. Certo, bisogna pensare che Carditello è chiusa in una morsa, ci sono 3 discariche intorno a Carditello, una tra le più grandi d'Europa, c'è la discarica Martinuzzella e c'è la TAV, cioè, è chiusa completamente in una morsa, ma diciamo che Carditello è stata sempre una pezza sporca, nessuno ha avuto mai interesse realmente di questa struttura, perché se no non permettevano la costruzione di questi ecomostri. Oggi la regia di Carditello è stata acquistata dallo Stato, ex ministro Brai, però tutt'oggi non si sa che cosa diventerà. Diciamo, anche quel territorio, quello è un territorio che era un territorio da 3 anni, probabilmente tra le terre più fertili d'Italia, che è legato anche a un paese, a un mondo contadino, a un'agricoltura che è stata abbandonata in certo senso, con il dopoguerra, con un'industrializzazione forzata. E bisogna pensare che quel paesaggio è stato disegnato nei secoli dal mondo contadino, ma come il resto dell'Italia, perché poi l'Italia oggettivamente geograficamente è un territorio bellissimo, per quanto cemento sia stato edificato. Senti, riguardo alla questione dei rifiuti, quello che è successo in questi 12 anni nel territorio del casertano, del napoletano, è stata una grande truffa mediatica, perché c'è stato un commissariamento e sono state raccontate tante bugie. La verità è che la terra si rigenera, l'uomo che si ammala, tutto quello che è venuto, anche con la diossina che si continua a dare, la questione di educazione all'ecologia che non è mai avvenuta. Bisogna considerare anche questo un paese che ha avuto il fascismo, perché non è avvenuta la riforma agraria, abbiamo avuto la mezza dall'81, allora una questione anche di emancipazione, no? Senti Pietro, questo tono fiabesco che hai scelto come ti ha permesso di avvicinarti a un territorio e raccontarlo? Ma io non sono cresciuto tanto lontano da lì, era anche un desiderio di riavvicinarsi a quella terra. La questione è che in questo momento storico dobbiamo guardarci tanto intorno e raccontare quello che è intorno a noi, avere buon senso, perché siamo anche dei privilegiati, no? Facciamo cinema, no? Allora forse abbiamo anche delle responsabilità probabilmente di raccontare questo paese da un altro punto di vista. Sì. Senti, nel tuo documentario film c'è anche una parte dedicata alla cittadinanza attiva che si è mobilitata proprio per contrasto alla terra dei fuochi, per i tanti mali che ha generato rispetto proprio alla salute soprattutto dei più piccoli. Ma certo, ripeto, per me è una grande responsabilità delle istituzioni, sia istituzioni locali sia centrali. È una responsabilità enorme, la gente, la povera gente non c'entra niente, spesso si dà la colpa ai ricchi, si dà la colpa ai politici, ma la gente chi ci pensa, la gente semplice, non ci pensa nessuno, eh? E questo è quello che è avvenuto in quel territorio. Tommaso probabilmente rappresenta l'uomo in rivolta, come nell'uomo in rivolta di Camus. Spesso si parla di Stato, di controstato, si parla di Camorra, ma la camorra è dove non c'è lo Stato, allora si crea il controstato, ma questa è una piaga antica. La gente deve ribellarsi, perché non è possibile andare avanti così. E noi lo dobbiamo denunciare, e dobbiamo fare film per i cittadini. Sì. Dobbiamo fare film per la gente semplice, la gente che non ha voce. Pietro, da oggi nelle sale come uscite? Come esce il film? Guarda, siamo partiti con 15 copie nelle città capona. Speriamo che il film si potrà difendere. Chiaramente non decidiamo noi qual è l'industria culturale di questo paese. Con tutti i mediatori che abbiamo in giro, speriamo che il film si potrà difendere. Bene, allora io ti abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto, Pietro. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Grazie. Ciao Pietro. Ciao. Pietro Marcello, regista del film Bella e Perduta, in uscita in sala oggi giovedì 19 novembre. Allora, ritroviamo Paolo Minuto per parlare della nuova programmazione all'Apollo 11 qui a Roma, che da oggi fino al 25 novembre vede in proiezione Storie di cavalli e di uomini. Paolo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben ritrovati a tutti voi e agli ascoltatori, grazie per averci chiamato. Dico subito che questa è una nuova esperienza che Cineclub Internazionale Distribuzione insieme a Massimo Righetti sta portando avanti come programmazione cinematografica nell'ambito delle attività di Apollo 11. Apollo 11, come sicuramente molti ascoltatori già sapranno, è un'associazione culturale che si occupa di vari settori, quindi vari settori: teatro, letteratura, musica, ecco. Per quanto riguarda la programmazione cinematografica, hanno chiesto la nostra consulenza, mia e di Massimo Righetti, per poter dare una continuità alla programmazione cinematografica, fermo restando che Apollo 11 organizza comunque anche degli eventi, ma in questo caso abbiamo provato a dare una certa continuità e quindi siamo partiti con Corpi, che era proprio il film che distribuiamo noi da due settimane, e adesso con una nuova prima visione oggi Storie di cavalli e di uomini, che è questo film islandese che ha vinto un premio anche al Festival San Sebastian l'anno scorso e che quindi contiamo di portare per questa settimana, nel weekend anche abbinato a Corpi, che comunque quindi continua una sua programmazione, ma questa diciamo è la programmazione base di questa settimana, ecco. Per cui contiamo poi in futuro, c'è in programma anche un omaggio a Antonietta De Villo, una riproposizione di Raffaello Luna Park e poi anche altre prime visioni per dare un po' un nuovo spazio di programmazione del cinema indipendente a Roma, in un quartiere comunque importante ecco, come questo. Oh, Paolo, tutto questo con l'impegno anche di dare una settimana di programmazione ai titoli, il che mi pare una buona cosa. Sì, esatto, infatti siamo partiti ovviamente con pochi giorni proprio per rodarci, e adesso questa è la prima settimana continua che facciamo, e spero che possa andare bene, che possa tenere, e così continueremo per dare una continuità anche ai titoli, che è la cosa poi anche più importante, perché comunque il pubblico ha bisogno di tempo per scegliere, andare a individuare il film, andarlo a vedere, soprattutto se si tratta di cinema indipendente, che quindi conta meno sulla pubblicità in senso stretto, ma conta di più sul passaparola, sui social network, sulle recensioni, eccetera eccetera, anche su Radio Onda Rossa naturalmente, che è un punto di riferimento comunque importante, e quindi il tempo ci vuole, per cui riuscire a conquistare anche la settimana cinematografica intera, cioè dal giovedì al mercoledì, per noi è un passaggio importante per dare anche questo nell'attività di Apollo 11. Infatti Apollo 11 è l'associazione che ha tutte queste attività, tra cui quella cinematografica. Il piccolo Apollo è il nome della sala della programmazione cinematografica. Bene, allora Paolo, speriamo di sentirci prossimamente per i futuri appuntamenti con i film in distribuzione. Sì, senz'altro, con i film di cinematografia internazionale ci risentiremo presto, e anche con la programmazione del piccolo Apollo. Seguiteci sui tamburini, su Radio Onda Rossa, sui siti Facebook, network, web, eccetera. Un abbraccio. Grazie. A presto. Ciao Paolo. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie. Bene, era l'ultimo per quanto riguarda i collegamenti con gli ospiti di quest'oggi. Chiudiamo con un paio di segnalazioni, perché esce in sala per 2 giorni Restaurato, Ricomincio da 3, il film d'esordio di Massimo Troisi, il 23 e il 24 prossimi di novembre, quindi lunedì e martedì, ed esce anche il documentario Teatro alla Scala, Il Tempio delle Meraviglie, un'uscita di 2 giorni anche questa, il 24 e 25 novembre, quindi martedì e mercoledì prossimi. È tutto per Visionari, torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page c'è l'opzione Ascolta la diretta. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per la scaletta potete consultare il sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, e la pagina Facebook di Visionari. Un abbraccio, buon proseguimento.